Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla seconda puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Io sono Stefano Lanciotti e, come forse ricorderete, sono l'autore. Nella prima puntata vi ho raccontato un po' di me, della mia passione per la scrittura e anche della mia carriera, se così la vogliamo chiamare, di scrittore tra pubblicazioni ufficiali e autopubblicazioni. Oggi invece mi fa piacere parlarvi del romanzo e di come è nato. Però prima forse vale la pena di parlarvi del mio rapporto con, diciamo, con la fantasy in generale, perché da lì si capiscono tante cose. Ebbene, io ho cominciato a leggere libri fantasy quando ero adolescente e credo, se non ricordo male, che il primo assoluto sia stato l'Hobbit. È stato amore a prima vista. Per qualche anno in pratica ho letto soltanto fantasy, nient'altro. Il Signore degli Anelli, il ciclo di Shannara, di Beleriand, le avventure di Conan di Cimmeria e poi tantissimi libri della meravigliosa fantacollana edita dalla Norn, bellissimo. In quello stesso periodo scoprì i giochi di ruolo, questa è una cosa abbastanza interessante, perché sempre genere fantasy, e all'epoca cominciavano a diffondersi in Italia, era proprio l'inizio di diffusione in Italia, Dungeons and Dragons, ma anche Dragon Quest, Warhammer e così via. Quello fu un passo importante perché lì capii che non mi piaceva soltanto il ruolo di giocatore, ma anche quello di master, cioè colui che inventava la storia e la presentava ai giocatori. E fu proprio in quel periodo che iniziai a scrivere avventure per i giochi di ruolo ed affinare alcuni meccanismi narrativi che si trovano evoluti ma non cambiati nei miei romanzi. Quando iniziai l'università diminuì il tempo a mia disposizione per giocare a giochi di ruolo su carta, ma nel frattempo erano nati quelli su PC, che mi tennero impegnato in lunghe avventure negli anni successivi. Nello stesso tempo, però, mi ero iniziato a disamorare dei romanzi fantasy, probabilmente perché mi ero innamorato di quelli ingenui e eroici degli anni 50, 60 e 70, e non mi ritrovavo molto in quelli delle generazioni successive. Forse si trattava soltanto di una crisi dovuta al fatto che non avevo letto altro per anni, e quindi ampliai lo spettro della mia lettura. Non è un caso, comunque, che quando mi riprese la voglia di rimettermi a scrivere intorno al cambio di secolo, non pensai al genere fantasy. Le mie prime opere, come ho detto nella scorsa puntata, furono dei thriller, e il genere occupò i miei scritti per vari anni. Ma nel frattempo, al cinema era uscita la trilogia del Signore Anelli, e devo dire, mi era tornata la passione per il genere fantasy. Dopo la trilogia spionistica dell'agente Con, avevo in programma di scrivere un romanzo con tema soprannaturale, sul tipo del Club Dumas di Pérez Reverte, che mi era piaciuto moltissimo. Ma mano a mano che lo scrivevo, mi accorgevo che il soprannaturale stava virando verso il fantasy. Mi fermai, ci ragionai molto su e poi ci ragionai ancora. Mi piaceva l'idea di un romanzo fantasy, ma ero molto incerto sulla mia capacità di creare un'ambientazione in un mondo completamente inventato, che doveva essere diverso ma coerente. Alla fine presi il coraggio a due mani, avrei scritto un romanzo fantasy e utilizzato la parte che avevo già scritto, opportunamente modificata, come introduzione alla storia. Così è nata Ex Tenebris, e questo è il motivo per cui la prima parte del romanzo è ambientata sulla Terra e non su Nocturnia, il mondo in cui invece è ambientato tutto il resto della vicenda. Non ho alcuna difficoltà ad affermare che ho scritto la storia così come mi sarebbe piaciuta leggerla, anche perché era probabile che ne fossi l'unico fruitore, dato che ero ancora nella fase della mia carriera in cui non riuscivo a trovare uno sbocco editoriale per le mie opere. Di conseguenza, al suo interno sono abbastanza facilmente individuabili generi e autori che mi piacciono, anche se ovviamente spero di averli rielaborati in modo da renderli abbastanza personali. Bene, anche per questa volta ho chiacchierato abbastanza, è ora di passare alla lettura. Nella prossima puntata magari parlerò dei personaggi, la cui genesi presenta a sua volta varie curiosità. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 2. Il dolore avvinghiava Diana Blake come se avesse avuto degli artigli conficcati nel suo ventre. Intorno a lei c'era un forte tanfo di rifiuti in decomposizione, di urina e di escrementi. Si domandò se avesse fatto bene a rifugiarsi lì, ma non fece neppure il tentativo di alzarsi. La morsa che le trafiggeva l'inguine le impediva di muoversi e, comunque, non avrebbe saputo dove andare. Faticava a impedire che la sua mente scivolasse nel torpore. Si trovava in un limbo nel quale ricordava e sognava, senza essere in grado di distinguere con chiarezza tra le due cose. L'insegnante, che vedendola pallida, le aveva concesso il permesso di tornare a casa. I tentativi ripetuti di chiamare suo zio. Il viaggio accucciato accanto all'autista nel pullman scolastico. Ne era scesa piegata in due, per tentare di contrastare il dolore crescente. Si era avvicinata all'ingresso di casa, sognando soltanto di sdraiarsi nel tepore del suo letto. Era arrivata a pochi metri dalla porta, quando la sua mente era esplosa. La strada, il vialetto d'ingresso, la pioggerella insistente erano spariti in un lampo, che era sembrato trasportarla in un luogo estraneo e conosciuto allo stesso tempo. Si era ritrovata a osservare l'interno della sua casa da un'angolatura distorta e strana, con il campo visivo che le si era ristretto davanti agli occhi. Le era apparso lo studio dello zio, anche se lui non si era accorto della sua presenza. Aveva uno strano vestito, una specie di tunica nera, e intonava un canto stonato, con una voce che non sembrava neppure la sua. Era rimasto immobile, a braccia aperte, con uno sguardo fisso su un enorme libro antico dall'aspetto sinistro. Accanto a lui si erano alzate lente spire di fumo denso da un braciere. Attorno ai suoi piedi c'era un circolo, con iscritta dall'interno una stella a cinque punte. Su ogni punta un cielo, nero anch'esso. Diana non aveva fatto in tempo a domandarsi come fosse giunta lì, quando dall'oscurità alle spalle dello zio era emersa una figura orribile, scura come l'abisso, ben più delle ombre che le gravavano sulla stanza. Si era girata verso di lei come se avesse percepito la sua presenza, e un ghigno agghiacciante le aveva deformato il viso. Poi l'aveva ignorata, e si era avvicinata a suo zio. Lei aveva tentato di avvertirlo, gridando per metterlo in allarme, ma era stato inutile. La voce le era sembrata incagliarsi in gola. Per qualche istante la creatura non era riuscita ad avvicinarsi a lui, come frenata da una barriera invisibile. Ma a un certo punto qualcosa si era rotto, e la figura gli si era avventata contro. Il dolore improvviso che l'aveva colta al ventre l'aveva allontanata bruscamente dalla scena. Non c'era bisogno di averlo visto, sapeva che lo zio era morto, lo aveva sentito. Quando era rientrata in sé, aveva cominciato a correre, piegata in due per il dolore e per evitare che qualcuno la potesse scorgere. Aveva corso fino a perdere l'orientamento. Si era ritrovato in una zona della città che non conosceva. I palazzi erano alti e fatiscenti, le era sembrato improvvisamente di essere l'unica ragazza in giro. Gli sguardi troppo interessati da parte di un gruppo di adolescenti appoggiati a una macchina senza targa e priva di ruote l'avevano indotta a prendere un vicolo laterale. Da qui aveva seguito un itinerario tortuoso, guidato dal terrore e dal dolore. Alla fine si era infilato in un palazzo in abbandono e si era seduta nell'unico angolo non invaso dall'immondizia. Si era appoggiata alla parete perché l'istinto le consigliava di proteggersi le spalle. Ora le prudeva la pelle all'altezza dello sterno. Non c'era bisogno di guardare. Sapeva benissimo che da quando era apparsa quella strana voglia, qualche mese prima, era arrivato anche il dolore. Thomas Travers cercò di concentrarsi e di lasciare fuori dalla mente i suoi problemi personali. La vita di Diana Blake poteva dipendere dalla loro velocità nelle indagini. L'unica traccia che poteva seguire, per ora, era quella che lo portava a questa certa Madame Rose, il cui indirizzo appariva stampigliato nei libri di Blake, il cui nome ricorreva anche nel suo diario. Si infilò di nuovo nel flusso del traffico diretto verso il quartiere di Georgetown, cercando di tenere la mente sgonda durante il tragitto. Lasciò l'automobile in un parcheggio a pagamento e si mescolò alla folla che si affannava nello shopping pomeridiano. Percorse alcune viuzze laterali, mentre l'oscurità fredda della sera autunnale calava come una cappa. Conosceva la zona, ma non ricordava ci fosse una libreria antiquaria. Giuntovi di fronte, capì perché. Il negozietto non aveva insegna, l'unico ingresso era seminterrato e per raggiungerlo bisognava scendere tre stretti scalini. Dalle finestrelle opache, occhieggiavano discrete, poteva scorgere file di libri della copertina scurita dagli anni. La porticina a vetri dall'area vetusta era chiusa e dalla strada non si capiva se in quel momento la libreria fosse aperta o no. Scese tre gradini e spinse delicatamente la porticina, che non oppose resistenza. Un odore di polvere umida e inchiostro lo investì. Davanti ai suoi occhi apparvero scaffali e scaffali di vecchi libri dall'aria per lo più malandata. Una grande quantità di riviste erano ammucchiate alla rinfusa su due tavole al centro dell'angusto locale. Più che una libreria antiquaria, sembrava un retrobottega di un rigattiere. Nessuna meraviglia che non ci fossero clienti. Avanzò e si aggirò tra tavole e scaffali. Non sembrava che la libreria fosse specializzata in occulto. Forse Blake aveva comprato i libri su ordinazione. Stava per dare una voce e chiedere se c'era qualcuno, quando si accorse di una vecchina che sembrava essersi materializzata al suo fianco. «Buonasera, giovanotte», lo salutò la donna, guardandolo dal basso con gli occhi velati dalle cataratte. Fece un passo verso di lui, arrancando, appoggiato a un bastone, e aggiustandosi con una mano i capelli tinti di un rosso palesemente innaturale, quasi violaceo. Cosa la porta da queste parti, giovanotto? Non sono molte le persone che mi vengono a trovare ultimamente. Mi chiamo Thomas Travers, signora, le disse allungando la mano per stringergliela. Rimase sorpreso quando la donna gli rivolse il dorso della propria. Improvvisò un goffo baciamano. Può chiamarmi Madame Rose, sorrise in apparenza molto soddisfatta del gesto di galanteria. Sono un consulente della polizia, signora. Il volto della donna si rabbuiò. Sto indagando sulla morte di una persona che credo lei conosca piuttosto bene. Si chiamava Sylvester Blake ed è deceduto oggi in circostanze molto strane. Madame Rose impallidì. Sylvester, sussurrò con un fio di voce, mio caro amico. Vi conoscevate da molto? Chiese con delicatezza Tom, dopo aver atteso in silenzio qualche istante. Erano amici da più di 15 anni, ma lui era un uomo molto riservato. Negli ultimi tempi ho dubitato di conoscerlo veramente. Si riferisce a qualcosa in particolare? Ai libri che gli ha procurato? Al suo interesse per la magia nera? La donna annuì e sembrò aggrapparsi al bastone, come per farsi forza. Immagino che le sappia che Sylvester ha una nipote, Diana, e forse sa anche che in realtà non sono parenti, benché lui l'amasse più di se stesso. Fu il turno di Tom di annuire. Sylvester non mi ha mai raccontato come Diana sia entrata nella sua vita, ma all'epoca l'aiutai a ottenere il suo affidamento. Avevo compreso che era molto importante per lui, anche se la mia libreria può sembrarle dimessa. Una volta avevo clienti importanti e amicizie influenti. Capisco. Blake si è sempre interessato in magia nera, chiese Tom. Voleva tornare all'argomento principale. Oh no, Madame Rose scosse la testa con un leve sorriso che le increspava le labbra. Sylvester era uno studioso, questo sì, ma non ha mai mostrato alcun interesse per l'argomento. Piuttosto era un amante delle lingue antiche e passava lunghe ore sui testi che traduceva, fino a qualche mese fa. E cosa è cambiato qualche mese fa? Non saprei dirle. Lo sguardo della donna si fece più vacuo, come se stesse guardando indietro nel tempo. Per lungo tempo lui e Diana hanno vissuto una vita tranquilla. Lei andava a scuola e lui passava le giornate sui suoi libri. Era piuttosto benestante, credo che avesse ricevuto un'eredità, per cui non doveva lavorare per vivere. Poi successe qualcosa? Madame Rose tendeva a divagare, come tutte le persone della sua età. Tom tentò di riportarla sui binari del proprio interesse. All'improvviso è cambiato tutto. Lui divenne agitato, nervoso e cominciò a chiedermi libri che neppure conoscevo. Antichi testi di magia nera e di evocazione demoniaca. Ma non mi chiede che uso ne facesse, non me l'ha mai spiegato. Non ha neppure un indizio da darmi? La donna scosse la testa. Sylvester Blake era un caro ragazzo, ma negli ultimi mesi era ossessionato da qualcosa, un segreto. Immagino che tentassi di trovarne la soluzione in quei libri. Pensa che intendesse compiere dei rituali magici su Diana? Temo che lei abbia frainteso le intenzioni di Sylvester e le mie parole. La donna gli riservò un sorriso amaro questa volta. Io non so cosa ci facesse con quei libri, ma certo non avrebbe fatto nulla di male a Diana. Semmai era preoccupato per lei. Tom annuì. L'aria della libreria gli aveva seccato la bocca. Il forte odore di inchiostro gli irritava la gola. Ma c'era ancora una domanda che voleva fare a Madame Rose. Lei ha mai visto questo diario? Chiese, sfilandolo di tasca e porgendolo alla donna. Madame Rose lo prese e lo sfogliò, scuotendo la testa. Sylvester era una persona molto riservata, come l'ho già detto, rispose. Non mi avrebbe mai fatto leggere una cosa così personale come un diario. Ha ragione. Però forse mi può aiutare lo stesso. Blake era uno studioso di lingue antiche e lei gli ha procurato dei libri. Mi sa dire se riconosce la lingua usata nel diario? Madame Rose fissò più intensamente di prima gli occhi di Tom. Poi prese gli occhiali da una tasca e se li infilò, chinandosi quasi a sfiorare con il naso le pagine. Osservò le prime due parole. Sir Bennett Xe. Quindi la donna scorse le parole una a una, seguendole con l'indice sottile e piegato dall'artrite. Poi sorrise. Nessuna lingua misteriosa, signor Travers, disse restituendo il diario. Sylvester amava le lingue classiche, il suo diario è scritto in latino. Credo si stia sbagliando. Tom scosse la testa, controllando di nuovo per sicurezza. Ma anche io ho un'infarinatura di latino e greco e non sono riuscito a riconoscere neppure una delle parole usate da Blake. Una risata profonda proruppe dal volto rigido della donna. Sylvester era un grande ammiratore di Leonardo da Vinci. Le basterà leggere da destra verso sinistra e la sua lingua misteriosa diventerà latino. Immagino che il mio vecchio amico abbia pensato che con questo semplice trucco i suoi pensieri e ricordi sarebbero stati protetti da sguardi indiscreti. Basito, Tom abbassò di nuovo lo sguardo verso le parole che non era riuscito a tradurre, il cui significato divenne immediatamente comprensibile. Ex tenebris.